Innanzitutto sono 20.000 i contagiati, 2.300 i guariti, 1.800 le persone morte e trovate positive al coronavirus. Questa mattina il governo varerà il decreto con i contenuti economici, dal rinvio delle scadenze fiscali al credito agevolato, oltre ai soldi per la sanità, mentre nel fine settimana si è riaffacciata un po' di polemica politica che, in tutta franchezza, vi risparmiamo. La notte ha portato notizie importanti dagli Stati Uniti: chiusi bar, ristoranti e cinema a New York e Los Angeles, spente le luci, chiusi i casinò a Las Vegas. Sono 3.400 i casi, 65 i morti, mentre a Wuhan si registrano solo 4 nuovi positivi. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Alle 6, 27 minuti e 28 secondi di questo lunedì 16 marzo inizia una nuova puntata, una nuova settimana di 24 Mattino. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, cari amiche, cari amici, eccoci di nuovo a cercare di raccontare questi giorni difficili anche col vostro aiuto al 349-238-6666, gli sms, i messaggi su WhatsApp, anche audio, le vostre voci di speranza, di sconforto, di paura, di giornate passate in casa e difficili da gestire. Ma mai difficili le nostre giornate come quelle che stanno vivendo le persone che lavorano negli ospedali, infermieri, medici, anche il personale non sanitario naturalmente, e che devono gestire questo flusso di pazienti enormi, le persone che lavorano per le ambulanze, i volontari del soccorso naturalmente. Siamo anche in diretta sulla pagina Facebook, come sempre, di 24 Mattino e di Radio 24. Andate sulla pagina di 24 Mattino, cliccate un bel mi piace, che poi nell'arco della giornata faremo qualche altra diretta al di fuori, no, della diretta video che facciamo qua per la trasmissione. Come state passando questi giorni dunque? Vai, raccontate, ne abbiamo bisogno di sentire la voce l'uno dell'altro. Non voglio sentire solamente la mia. Allora, ancora ieri, lo avete visto dai numeri, una giornata dura. Oggi quella nella quale verranno varati i provvedimenti economici, se vogliamo metterci un filo di... giusto un filo di polemica, ci sono una serie di scadenze di oggi 16 marzo e si riunisce il Consiglio dei Ministri alle 9 del 16 marzo per stabilire il rinvio di queste scadenze. È tipicamente italiano, ci siamo abituati, però insomma forse si poteva partire prima almeno con queste cose, lo dico per tutti quelli che hanno delle scadenze fiscali, a partire dagli autonomi naturalmente. Valerio D'Ancona mi scrive: Simone, per piacere, perché non si parla mai della Russia? Pare un buco nero. Incredibilmente nella Russia non c'è nemmeno un caso di Covid-19. Ho da dire che è una popolazione sparsa su un territorio enorme. Devo dire, ci risulta un po' strano, a dire il vero. Però restiamo a noi e ai luoghi più in difficoltà, a partire dalla Lombardia, il presidente Fontana. Purtroppo la situazione in Lombardia non sta migliorando, ma anzi i contagiati continuano ad aumentare. Abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno di medici, di infermieri, abbiamo bisogno di respiratori. Io devo dire che si è già mossa una grande solidarietà. Credo che grazie all'aiuto che tutti ci potrete dare riusciremo a realizzare questo nuovo grande ospedale dedicato esclusivamente ai malati di Covid-19 e riusciremo a dare a tutti una possibilità di essere opportunamente curati. E ancora una voce che, diciamo, ce la mette un po' paura, È quella di Galli, del Sacco di Milano, una voce che abbiamo sentito spesso in questi giorni e che dice: attenzione, la battaglia in città è in arrivo. la battaglia di Milano, perché avremo la battaglia di Milano. Cosa la si dire? Può tentare di vincere anche in questo modo. Cosa vuol dire? Sto parlando dell'area metropolitana milanese, ove le avvisaglie di focolai di infezione qua e là sono sempre più evidenti, voglio dire. Quindi è inutile illuderci, dovremo cercare di contenere il problema a Milano e di essere molto preparati a combattere questa cosa col massimo dell'efficienza. E c'è chi la battaglia la sta già combattendo. È Bergamo, sono i dintorni di Bergamo, sono alcuni luoghi in provincia di Bergamo, a partire da Alzano Lombardo, e siamo in linea con il sindaco Camillo Bertocchi. Sindaco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Sono 50 le vittime al momento, Bertocchi, se non vado errato, nel vostro paese. Sì, purtroppo sì, la situazione è molto molto complicata, il dato sul bergamasco è di più 20% al giorno, ieri 550 nuovi casi positivi, abbiamo ormai superato le 3.400 unità, però il dato che balza all'occhio a livello locale sono proprio i decessi, 50 decessi in 20 giorni, nello stesso periodo dello scorso anno erano stati 8, questo per dare l'idea della situazione drammatica. Bertocchi, come si spiega questa esplosione di casi proprio nella vostra area? Non ce lo spieghiamo, pensiamo sia legato sicuramente al caso, non abbiamo idea di quale possa essere l'origine, la situazione è stata anche evidentemente in attesa e siamo ormai nella quarta settimana ed è difficile davvero continuare a vivere così. Quello che dice lei, Bertocchi, ho letto da qualche parte che si sarebbe dovuto fare per Alzano, per Nembro, insomma per un'area della Bergamasca, fare quello che si è fatto a Codogno e dintorni, insomma fare una zona rossa più rigida da subito. Beh, noi come sindaci della media Valle Seriana abbiamo capito da subito la gravità della situazione e avevamo sviluppato da subito anche delle ordinanze restrittive. Ordinanze che poi sono state, come dire, allentate per effetto di disposizioni solo a noi sovraordinate, e quello secondo me è stato il momento in cui abbiamo perso l'occasione. Noi avevamo da subito detto che volevamo misure molto rigide da subito per uscire quanto prima da questa emergenza. Forse si è perso del tempo. Si è perso del tempo, Bertocchi. Dall'altra parte, insomma, è chiaro che adesso è un po' difficile parlarne perché sono persone coinvolte direttamente nella gestione di questa emergenza. Forse nello scatenarsi di tutto ciò c'è stato un problema nel vostro ospedale, così si dice almeno, per carità. Poi ripeto, adesso gli operatori sono là, lavorano e noi abbiamo il massimo rispetto, però forse qualche protocollo non ha funzionato in termini di diffusione. Questo non glielo so dire assolutamente, perché la direzione sanitaria non dipende ovviamente da noi, anche noi sappiamo, abbiamo qualche informazione attraverso la stampa, quindi non abbiamo contezza di quello che è successo in quei giorni di febbraio. Adesso l'ospedale è completamente riconvertito al trattamento del Covid, ci sono circa 90 posti letto, sono arrivati anche i medici militari, sta funzionando bene a supporto di questa emergenza. Quando avete proposto la chiusura del paese di Alzano, che cosa vi è stato risposto? La cosa che fa un po' male è che non ci è stato risposto nulla, nel senso che noi abbiamo vissuto di fatto una settimana sospesi in attesa di determinazioni, e questa tensione ha ingenerato ancora più confusione, perché anziché concentrarci sulla missione principale, che era ed è quella di contenere i contagi, il tema era diventato zona rossa sì, zona rossa no, e questo non ha certo trovato anche l'impegno della popolazione. E la popolazione come si sente adesso, come si sentono i suoi cittadini? So che è una domanda quasi banale, Bertocchi, però insomma il polso ce l'avrà, immagino, la comunità di quanti? 13.000 abitanti, 13.500 abitanti, no? Sì, allora la popolazione è molto provata. Siamo in attesa di qualche segno positivo, siamo in attesa che ci sia quantomeno una flessione prima o poi di contagi, ce l'aspettiamo tra una settimana. La situazione continua ad essere complessa anche nel trattamento di casi non solo in ospedale ma anche e soprattutto presso i domicili delle persone, e qui interviene in modo modo determinante la rete dei medici di base, che è molto in difficoltà perché mancano le cose minime, i dispositivi di protezione individuale, e a tratti è mancato anche la fornitura di ossigeno, e capite bene con quale difficoltà e dramma si sta lavorando. La ringrazio, grazie a Camillo Bertocchi, sindaco di Alzano Lombardo, per essere stato con noi e per averci dato un punto della situazione. Elisabetta da Como dice: ma i 45.000 bergamaschi allo stadio San Siro il 19 febbraio non possono aver diffuso il virus? Guardi, non lo so, diciamo che molti errori sono stati fatti nella parte iniziale di questa emergenza, errori che in parte, vogliamo dircelo, sono stati commessi anche da altri paesi. Pensate alla Francia, che ieri è andata al voto per le elezioni comunali, e ci sono queste foto sui giornali di Parigi con la gente per strada seduta a ridosso della Senna, tutti insieme, tutti felici in una bella giornata di sole. Ancora Galli sul tema delle terapie intensive. Ovvio che il riferimento è soprattutto alla Lombardia, soprattutto a Milano, soprattutto a queste aree che sono evidentemente quelle più in difficoltà. Però il tema è sempre quello: se si va in saturazione in aree come queste, sono aree nelle quali il sistema sanitario ha un discreto funzionamento, Cosa può succedere, per esempio, in alcune aree del Mezzogiorno? Ancora Galli, siamo vicini al collasso, dice. Continuiamo a dire che la situazione è prossima al collasso, adesso è veramente vicina al collasso da questo punto di vista. La capienza dei nostri ospedali, che pure abbiamo dilatato al di là del inverosimile, cioè facendo delle operazioni, inventandoci cose. Nel mio ospedale in modo particolare abbiamo colonizzato altre aree, altri reparti, stiamo dilatando l'indilatabile. E così Galli, lo avete sentito, era ospite di Fabio Fazio. C'è tutto il tema, insomma, l'abbiamo detto con Parigi, c'è tutto il tema di chi continua a girare come se nulla fosse, no? Come se fosse tutto normale, tutto tranquillo, se ne va in giro. Bisogna stare molto attenti. Io non so se questa cosa ce l'hanno ben chiara tutti, eh. Bisogna stare molto attenti. Perché se anche vi sentite sicuri, perché, che ne so, avete 40 anni o poco più di 40 anni come me, e sapete che è basso il rischio di mortalità per uno come me, dovete anche sapere che innanzitutto rischiate di diffonderlo, in secondo luogo c'è un rischio di complicazioni che è molto forte. Il tema è esattamente questo, lo ricordiamo ancora una volta, il tema del cercare di non far diffondere il virus ha a che fare con l'evitare quello che ci raccontava Galli in questo momento, ossia diceva: siamo quasi al collasso, va bene? È un tema che ha a che fare con i posti letto, è un tema che ha a che fare con i posti in terapia intensiva, è un tema che ha a che fare con i respiratori. E quindi nel caso vi ammalaste e doveste finire in ospedale e magari avete l'etammia, come vi sentireste a sapere che un medico ha dovuto scegliere e ha fatto morire un uomo di 75-80 anni facendo sopravvivere voi? Come vi sentireste? Perché poi è facile, quando la trattiamo a livello generale, i grandi numeri, le percentuali di vittime, soprattutto tra, appunto, gli ultra ottantenni. E poi però, quando è una singola persona, è una cosa diversa, anche quando non c'è parente. E no, fare una passeggiata senza contatti con nessuno non è pericoloso, infatti la passeggiatina è consentita anche la corsetta, però più si limita, meglio è, no? È molto semplice la cosa. Certo, il cane lo devi portare a far pipì, certo, ovvio. La spesa la devi fare, soprattutto se sei senza cose. La consegna a casa, in quelle che non sono le grandi città, non è così facile, lo sappiamo perfettamente. E anche nelle grandi città sta diventando difficile, perché ormai sono consegne a una settimana praticamente. Quindi lo sappiamo. c'è l'autocertificazione, ve la firmate e state fuori il meno possibile, ben protetti, ben distanti. A proposito di persone non particolarmente responsabili, c'è Vincenzo De Luca, il presidente della Regione Campania, che su questo tema sta battendo da giorni. E insomma, con il suo modo un po' colorito, però chiarisce anche bene quello che sta succedendo, no? La testa non serve a dividere le orecchie. Prendo questi esempi per dire che poi noi possiamo regolare con le ordinanze il 999% dei problemi, ma poi deve essere messo in funzione il cervello della gente. A volte sembra di avere a che fare con persone che sembrano ragazzini alla prima comunione. Il cervello, la testa, serve non solo per dividere le orecchie, ma anche per connettere i neuroni, cioè per far funzionare la mente. Allora, quando abbiamo dato le indicazioni generali, ognuno si può anche attivare per fare le cose giuste, da solo, senza aspettare qualcuno che dia la lezione la mattina. Ancora De Luca. Siamo costretti purtroppo a fare questo lavoro, perché c'è il 90% dei cittadini che ha capito che la situazione è seria. C'è un 10% di responsabili che devono essere neutralizzati. E anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, che dice: se andiamo avanti così dovremo mettere il coprifuoco, che in questa chiave fa un appello ai veneti, perché sì, si può fare la spesa, però faccio appello al buon cuore dei veneti. Sono dei veneti che, siccome non sanno che scusa avere per uscire, vanno 5 volte, 6 volte al supermercato, intasando i supermercati e rischiando anche di contagiarsi o di contagiare qualcuno. Capite, ragazzi, come si fa così? Intanto chiude di fatto Ariano Irpino, e lo fa sempre Vincenzo De Luca, chiude Ariano Irpino perché ci sono dei casi, là c'è stato, a quanto raccontano, un medico, guardate che è una cosa da pazzi, un medico che ha saltato il triage per far visitare la moglie. Avete capito? È entrato direttamente in pronto soccorso con la moglie e con i sintomi, un medico. Chiude Ariano Irpino e passa questo, lo facciamo sentire come audio per dare la misura un po' di quello che succede, no? La voce dalla macchina che con il megafono l'avviso ai cittadini, no? Carmelo Lauricella, vediamo se lo peschiamo. In Irpinia, appunto, l'avviso ai cittadini in Irpinia. Cioè, ce l'abbiamo? Via. Siamo costretti di comunicarvi di restare a casa. La situazione è molto grave. Tenere i bambini a casa. Gli anziani restano a casa. E insomma, succede anche questo nell'epoca, nel 2020, quella nella quale in Corea mandano i messaggi sui cellulari di tutti. Succede anche questo, però purtroppo c'è anche questo evidentemente. Adesso andremo in un altro luogo, a Torino, da Giovanni Di Perri, che è responsabile malattie infettive dell'Amedeo di Savoia, che è già in linea con noi, ma prima il traffico. E dunque con Giovanni Di Perri, responsabile malattie infettive dell'Amedeo di Savoia di Torino. Di Perri, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti voi. E innanzitutto buongiorno. Le chiedo un quadro della situazione dalle vostre parti. Ma insomma, i numeri stanno crescendo, il sistema è ovviamente in affanno su varie voci, ovvero posti letto attrezzati, posti di subintensiva e soprattutto posti di terapia intensiva. Poi ovviamente è in affanno il Piemonte, insomma ci sarebbe la protezione civile che sembra non abbia ricevuto quel che si aspettava in termini di dispositivi, mascherine, tutone, camici e quant'altro serve per proteggere gli operatori. Quindi in effetti lo so che quanto poco è rimasto nei reparti, ormai dico reparti perché una volta dicevo reparto, insomma ne abbiamo aperti altri a vario titolo per cercare di dividere anche in funzione della gravità, insomma. Però ecco, il sistema in sofferenza qui sta ancora salendo, speriamo che si possa arrivare. Io faccio sempre anche ai miei operatori l'esempio di Codogno, di Bo, vedete come a un certo punto questo tipo di restrizione dà i frutti e magari riusciremo a respirare. L'importante è che questa restrizione la rispettino tutti, insomma, naturalmente, sì, di Perri. Sì, sì, sì, insomma, sì, no, sì, non facile, certo. Lo abbiamo raccontato ai nostri ascoltatori, perché qualche ascoltatore ci dice: io oggi, anche oggi, vado a lavorare, però ricordiamo che Codogno è un'area tutto sommato, quella di Codogno e dintorni era un'area tutto sommato piccola, che era più facile chiudere completamente fermando anche le attività produttive. Qua certo, tutte le attività produttive vuol dire che nemmeno mangi, cioè non vai le aziende non producono, no, le cose che poi ti ritrovi nel supermercato, diventa tutto più complicato, quindi ci vuole un po' di equilibrio su questo, a partire dal rispetto naturalmente nelle aziende delle regole igieniche. Di Perri ho una nota, chiamiamola positiva, in quest'ambito. Da voi l'altro giorno è guarito un uomo di 97 anni. Sì, sì, l'abbiamo rimesso noi. È infatti il nostro vanto, ma insomma era al di là di tutto, poi certo, ma ne guariscono, per carità di Dio, anche di età evidentemente avanzata. Poi purtroppo quello che affiora, quello che ci impegna sono i malati che diciamo evidentemente peggiorano, vanno incontro a una serie di necessità di assistenza ventilatoria che non possiamo affrontare. Certo, la nostra immagine, anche il nostro modo di interpretarla, è forzato dal fatto che abbiamo fatto pochissimi tamponi. Quindi abbiamo un denominatore di malattia che è effettivamente basso. Allora spicca questa mortalità italiana che è oltre il 7%, se andiamo a calcolarla. E verosimilmente ci sono molti, molti casi non diagnosticati che speriamo siano a casa, chiusi e non stiano contagiando altri. Evidentemente non hanno ancora, e spero che non avranno bisogno di noi, cioè quindi è una realtà silente, non misurata, e che si esaurirà spontaneamente, quello che ci auguriamo. Però insomma. Senta, Di Perri, mi toglie una curiosità. Sì. Voi state sperimentando, sperimenterete questa terapia che è partita dalla Cina, in realtà, e che abbiamo visto sperimentata per la prima volta a Napoli, questa terapia col il farmaco antiartrite, che lo ricordiamo, non è che guarisce da Covid-19, però che cosa fa? Riduce l'infiammazione e consente di estubare una certa quota di pazienti. Sì, esatto, quella che sembra essere nei malati un eccesso di aggressione del nostro sistema di difesa alle cellule diciamo del polmone infettate. Allora se si modula, si modera questo tipo di reazione, il polmone subisce meno lesioni, riesce a ventilare meglio e quindi le cose in linea generale vanno meglio. Il proposito non è soltanto di anticipare la guarigione, è di cercare proprio anche di ridurre l'accesso a rianimazione. Quello sarebbe già un risultato enorme. Lei pensi di ridurre anche solo del 20% in questo momento l'accesso a rianimazione, ci darebbe un bel po' di respiro, insomma. E lo sperimenterete, Di Perri? Lo state no, già sperimentando? È già in corso come protocollo cosiddetto off-label, che si riferisce all'uso di farmaci in commercio, ma su indicazioni non autorizzate. E poi adesso oggi viene concordato con vari professionisti un protocollo che tenga conto anche dell'esistenza di altri farmaci. Sono, lo sapete, ve l'hanno detto mille volte, altri antivirali, l'uso o meno del cortisone. Quindi mi scusi, giusto per capire, l'avete già utilizzato e avete ottenuto i risultati oppure no? Ma sì, ecco, cioè, siamo nel perimetro di quelle che sono le percezioni e le impressioni, ovviamente. Perché sì, per che carità, è chiaro, è chiaro, però ci dia un'idea. Sì, sì, l'impressione è buona. In qualcuno effettivamente nel giro di 24 ore domina, diciamo riduce di molto il profilo infiammatorio, e quindi l'impressione è favorevole. Siete riusciti ad estubare dei pazienti in questo modo? Ma diciamo che l'impressione è che un paio possano effettivamente avvalersi. Ora puoi dire se si sarebbero stubati da soli o meno, questo Chiaro. È difficile, perché poi però insomma l'impressione è favorevole. Sì. L'impressione è favorevole. Grazie a Giovanni Di Perri per essere stato con noi, responsabile malattie infettive dell'Amedeo di Savoia di Torino. La ringraziamo per averci anche chiarito questo, perché è uno spunto interessante. Si è ammalato il vice ministro della salute Sileri, sentiamolo, va. Innanzitutto posso dire che sto bene. È chiaro che la sera i sintomi diventano un po' più forti, come può essere una fortissima influenza, ma ovviamente vedremo poi i prossimi giorni come andrà. Devo misurare la febbre, accortezze quotidiane, ovviamente lontananza da mia moglie e mio figlio, e aspettiamo e vediamo giorno per giorno ciò che accade. Allora, sul tema delle chiusure, l'ascoltatore al quale siamo vicini, che dice: nessuno pensa e parla dei cantieri edili, in realtà se ne parla, però insomma è giusto anche parlare di questo. Lavoro a Savona, 120 maestranze senza spogliatoio, senza sala mensa, 10 bagni chimici, persone che arrivano da tutta Italia, perché non vengono chiusi? Tra l'altro è un cantiere privato, non è un'opera pubblica. Se la situazione è effettivamente quella, sì, perché non viene chiuso? Luigi Di Maio sugli italiani, perché ci sono molti italiani che sono ancora all'estero e non riescono a rientrare, sentiamo. Ci sono tanti italiani che sono in difficoltà all'estero, non è semplice, ma un po' alla volta vi faremo ritornare tutti quanti in Italia, questo ve lo prometto. È in contatto con alcuni di loro Piero Marrese, che è presidente dell'Unione Province della Basilicata. Buongiorno Marrese, benvenuto. Buongiorno a voi. Ne ha parlato lei nei giorni scorsi. Chi ha sentito? Lei è in contatto con degli studenti? Con chi è in contatto? Allora, ci sono numerosi studenti che diciamo ormai vivono in tutta Europa per motivi di studio, fanno i progetti Erasmus finanziati dalla Commissione Europea. Io personalmente ho contatti con un bel gruppo di ragazzi che studia in Spagna. La Spagna inizialmente ha sottovalutato il problema, per poi diciamo scoprire di colpo questo enorme numero di contagi, e quindi successivamente ha chiuso gli aeroporti, quindi ora questi ragazzi si trovano da soli, lontani dai genitori, in un paese estero. E quindi ecco perché ho chiesto e attenzionato a livello nazionale la questione, affinché il Ministero se ne possa far carico. Bene il Ministro Di Maio, che ha già iniziato ad affrontare la questione. Bisogna far sì che questi ragazzi possano essere trasportati in Italia in sicurezza, poi magari si valuta la quarantena, tutto diciamo il protocollo di sicurezza per evitare eventuali altri contagi, però almeno gli viene data la possibilità di rientrare in Italia dalle proprie famiglie. Loro e tutti gli altri, insomma, a partire dai famosi italiani di Tenerife, insomma, e via dicendo, insomma, ce ne son parecchi. Come diceva Luigi Di Maio, ci si sta muovendo. Nei giorni scorsi abbiamo avuto ospite, lo ricorderete, il ministro della difesa Guerini, il quale ci aveva detto, insomma, stiamo predisponendo e possiamo utilizzare anche aerei militari per queste questioni. Allora io la ringrazio, grazie a Piero Marrese, presidente dell'Unione Province della Basilicata, sul rientro degli italiani dall'estero, appunto. E vediamo se abbiamo qualche altra voce da farvi sentire. Beh, insomma, dai, fatemi chiudere così questa parte con un po' di quello che si è sentito dai balconi in questo fine settimana. Sì, l'inno di Mameli, e poi nella giornata, se non vado errato, di ieri, o no, l'altro ieri, a mezzogiorno, gli applausi per il personale medico. E poi una tromba che suona dentro Milano. Ed eccola qua, la tromba che canta, che suona, oh mia bella Madunina. Chiudiamo così, è un modo per farci forza, per dire che andrà tutto bene. Qualcuno polemizza un po' su questo andrà tutto bene, dice che insomma no, perché in realtà le cose non andranno bene per niente. Ragazzi, è un modo per farsi forza, per farsi coraggio. Insomma, immaginiamoci tra 10 anni, quando tutto questo sarà passato, e immaginiamoci a guardare in retrospettiva questo spartiacque delle nostre vite. Con Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione insieme a Giorgio De Luca, finisce questa prima parte di 24 Mattino. Ci ritroviamo tra un attimo con la rassegna stampa.